Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma finalmente, eccoci, sono le 11:11. Abbiamo Carmelo Lauricelli regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Corriamo al nostro sommario. Utero, dalla prevenzione alla cura. Tutti pazzi per il sushi. La luna storta si può raddrizzare. Elastico, flessibile, creativo, ottimista, generoso e paziente. Così, secondo me, merita di essere presentato l'organo in cui si annida e cresce la vita, l'utero, un organo con cui tutti noi, senza alcune distinzioni di genere, abbiamo una relazione molto stretta, intima, vitale. Bene, io credo sia arrivato il momento, cari amici, di dedicargli una bella puntata e di raccontarlo nella sua grandezza e nella sua fragilità, con un'attenzione alla prevenzione, ma anche alle nuove tecniche, o meglio ai nuovi approcci chirurgici che sono sempre più conservativi. 824 0024, questo è il nostro numero verde già a vostra disposizione come sempre, e i messaggi al 349 238 6666. Oggi qua in studio con me è tornato a trovarci il professor Roberto Carminati. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Specialista in ostetrice, ginecologia e patologia della riproduzione umana, primario all'ospedale di Legnano e soprattutto autore, questo che mi intriga, di un libro pubblicato da Piccina Edizioni che si intitola La chirurgia vaginale oltre la tradizione. Questo ci dà da ben sperare, no? C'è stato un superamento, un cambiamento negli ultimi 10 anni, professore. Ma il cambiamento che c'è stato in questi ultimi 10 anni è stato quello di cercare di mettere a punto delle terapie per le donne che fossero anche rispettose della loro fisicità. Finalmente. E quindi che la terapia non sia soltanto il risultato di una efficacia, ma anche complementata da quello che può essere il rispetto proprio del corpo e della psicologia femminile, aiutati anche da un grandissimo supporto farmacologico che in passato non c'era. Certo, senta professore, noi stiamo parlando di un organo, io riflettevo, unico, e direi nel senso più pieno del termine, perché ha delle caratteristiche particolari che lo differenziano da tutti gli altri. La prima che mi viene in mente, che condividevo con Laura Vanossi, è che la sua vita può essere divisa in tappe. Insomma, mi spiego meglio. Lo stomaco di un bambino, anche molto piccolo, fa più o meno le stesse cose di quando diventa poi adulto. Invece nell'utero le cose cambiano. Direi che la sua vita è fatta a tappe, o no? Sì, va anche in pensione l'utero. Beh, certamente ha il compito principale, sicuramente è quello di prepararsi ad accogliere la vita, e come dicevano molti esperti, la vita gestazionale non è solo quella dei 9 mesi che si esaurisce all'interno del grembo femminile, ma dura molti anni, e quindi c'è una prima fase che si completa con col menarca, cioè la comparsa della prima mestruazione, e che comincia a segnare la disponibilità a farsi affittare con una nuova vita, no? Perché abbiamo sempre usato la metafora dell'utero in maniera abbastanza gioiosa, intendendola come un monolocale. Poi lui ci dà dei segnali molto importanti, perché ci dà il segnale della femminilità, ci dà il segnale dell'accoglienza alla vita, ci dà il segnale di una risposta alle nostri equilibri ormonali, ci dà un segnale anche di variabilità, perché è dimostrato come la fertilità possa essere a grandi linee così inquadrata, ma con tantissime eccezioni. Quindi diciamo che è un'evoluzione continua fino poi a completarsi in una cessazione procreativa e diventare soltanto un organo che mantiene una sua statica pelvica, che però rimane come in uno stato di quiescenza, tant'è vero che la tecnologia moderna ha permesso di risvegliarlo anche in età in cui sembrava completamente spento. Ecco perché questo ci spiega alcune notizie di cronaca di gravidanze portate in grembo a donne che non avevano più possibilità. Basta. Possibilità, ho visto che ha messo un punto. Io ricordo il nostro numero verde 824 0024, e quindi noi dico donne naturalmente, anche se il professor Carminati parlava dell'utero come se ce l'avesse anche lei, no? Un ascoltatore un giorno, io ho fatto una puntata sulla prostata, mi scrisse una mail dicendo: guardi che lei non ha la prostata. Perché uno si poi lei soprattutto che è ginecologo. Comunque io direi che oggi potrebbe essere una buona occasione per farci spiegare parole, diagnosi che a volte non abbiamo tempo oppure il coraggio di chiedere al nostro ginecologo. Ci sono termini che sembrano nati per generare confusione, professor Carminati. È il medichese allo stato puro. Molte donne si chiedono ancora la differenza tra pap test e HPV test, tra colposcopia e eteroscopia, rimangono confuse, intimorite quando il medico parla di utero fibromatoso. Che cosa vorrà dire? Oppure di ectropion, o soprattutto la paura del tumore, il tumore all'utero, e poi se me lo levano che cosa capita? 800 24 0024, parliamo e confrontiamoci. Una mela al giorno. Da qualche anno è diventata una vera e propria moda. Parliamo di sushi, piccoli pezzetti di pesce crudo, e per questo motivo sicuramente il fatto che sia un consumo crudo, ma molti piacciono proprio perché sentono il sapore del mare, ma bisogna avere occhio, stare molto attenti. Per cui in linea con noi abbiamo il dottor Giuseppe Arcangeli, che è responsabile del laboratorio di igiene dei prodotti ittici dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Professore, allora partiamo dall'acquisto, perché è vero che il pesce crudo per alcuni è una vera prelibatezza e sicuramente evitando la cottura conserviamo, no, le proprietà nutrizionali originarie, ma è anche vero che qualche rischio si corre. Certo, ho detto bene. In effetti mangiare del pesce crudo per il consumatore c'è un'esposizione a dei potenziali rischi. Direi in primis la possibilità di contrarre dei parassiti, sì. Come per esempio l'anisakis, che è un piccolo vermetto bianco lungo circa un centimetro, difficile da vedere tra le masse muscolari, sì. Che se viene ingerito vivo può dare esito a episodi gastroenterici che vanno da una semplice gastroenterite, sì. Fino a casi più gravi, fino anche alla perforazione della parete intestinale. Si sta subito male o capita dopo qualche giorno? Guardi, l'evento in Italia, intanto c'è subito da sfatare questa cosa, è abbastanza raro, perché meno male. Non consumiamo così tanto pesce crudo come in altri paesi del mondo. Prendiamo per esempio il Giappone. Sì. In Giappone è diffusa questa possibilità, ma in Giappone si consumano anche 70 kg di pesce pro capite annui contro i 21 che consumiamo in Italia. Sì. Solo pochi parassiti ingeriti vitali riescono a determinare una patologia nell'uomo. Guardi, in Italia i casi sono rarissimi, sì. E sono legati al consumo di alcuni pesci. Quali? Non tutto il pesce crudo è soggetto a questo. Alcuni pesci, fra cui per esempio il pesce azzurro. Quello che piace a me, acciuga, sardina, sgombro. Ecco, acciuga, sardina e sgombro sono fra quelli potenzialmente pericolosi. Per questo però c'è una tutela per il consumatore, perché c'è una legislazione ben precisa che obbliga il venditore di pesce crudo, sì. A congelare prima il pesce che deve essere poi consumato crudo, ripeto, sì. A congelarlo per almeno 24 ore a meno 20 gradi centigradi. Questa è una normativa europea in vigore dal 2004. Certo. E questo garantisce noi consumatori. Chiaro, se compriamo del pesce fresco, un'acciuga fresca, e vogliamo consumarla cruda, cosa faccio? Dovremo noi congelarla a casa nostra. Ecco, in quel caso consiglio di tenerla nei nostri freezer per almeno 2 giorni per arrivare a cuore del prodotto. Quindi poi la tiro fuori, la congelo 2 giorni, la tiro fuori, la lascio scongelare in frigorifero e poi posso marinarla, ad esempio. Dopodiché posso consumarla cruda con un po' di limone oppure marinarla con aceto, sale e un po' di limone. A quel punto posso stare tranquillo. Senta, professore, lei quindi ci rassicura, perché insomma il consumo non è così abbondante come in Giappone, quindi anche se adesso questa moda è impazza ci sono delle norme, ci ha dato quindi un'indicazione per chi ama consumare il pesce crudo a casa, quindi passiamolo in freezer per 2 giorni. Per quanto riguarda l'etichetta, al momento dell'acquisto, se uno vuole portarsi del pesce a casa ed essere sicuro di quello che compra, quali sono gli aspetti da tenere sotto controllo? Ecco, anche in questo caso c'è una normativa ben precisa che viene applicata in Europa e in Italia dal 2001. Sì. Che è una tutela anche questa per il consumatore. Praticamente il consumatore ha il diritto, al momento dell'acquisto, sì, ha il diritto di vedere sul banco vendita tre informazioni. Sì. La denominazione di specie, sì, pesce che deve essere nominato col suo nome ufficialmente riconosciuto in Italia, per esempio l'orata deve essere chiamata orata e non in altri modi. Sì. La zona di provenienza, sì, i mari dove sono stati catturati questi pesci, okay, e la modalità di cattura, se di pesca o di allevamento. Mm. È importante questo, sapere cosa compriamo, perché esiste anche del pesce che è tossico per natura. Faccio un esempio, il pesce palla, sì, ci sono varie specie di pesci palla che non ci sono da noi, ma ormai con la globalizzazione possono anche essere importati dalle, sì, zone dove vivono normalmente, tipo sud-est asiatico. I pesci palla sono tossici. Di per sé, per cui se non viene riconosciuto al momento dell'acquisto il pesce nella sua specie, ecco che il consumatore può essere esposto a questo rischio. Per cui è un dovere da parte del venditore. E noi è un nostro dovere leggere, perché credo, professore, che l'informazione per il consumatore sia proprio la prevenzione più efficace. Professore, la ringrazio per essere stato con noi. Buon pesce crudo anche a lei, allora. Ho visto che lei è un bravo cuoco. Mi ha detto delle acciughe. Grazie, professore, buona giornata. A lei, buona giornata. Pronto soccorso. Professor Carminati, noi torniamo ad occuparci del nostro utero, di questo, come lo diciamo, scrigno a forma di pero o imbuto, come possiamo descriverlo e localizzarlo? Allora, lo possiamo definire come un, sì, veramente uno scrigno dove si accoglie la vita, e la metafora della pera è una metafora che, prima di tutto, riferirla a un frutto è sempre una cosa bella, positiva, perché è proprio come un nutrimento, diciamo, ma nello stesso tempo ci permette, in questa caratteristica di organo, di volume, di definirlo meglio, perché molte volte ci sentiamo dire il corpo, il collo, eccetera. Ecco, quindi prendiamo la pera, perché mi piace di più dell'imbuto. Esatto, perché diciamo che il corpo... Definiamo questo utero come fosse una pera e lo distinguiamo dalla mela. Qual è il collo? Allora, la differenza che c'è in questo è che il collo è questa parte lunga da dove che comunica con il canale vaginale attraverso questo orifizio da cui escono, per esempio, il sangue mestruale, o dove noi andiamo a praticare il pap test nella prevenzione dei tumori del collo dell'utero. Da questo piccolo orifizio parte un corridoio che si mette in una stanza che invece è all'interno del corpo, no? Che io ho sempre chiamato monolocale. Però un monolocale magnifico. Siamo stati benissimo lì dentro. Un monolocale speciale. Senta, professor Carminati, parliamo, noi vogliamo partire dalla prevenzione per andare a parlare poi di chirurgia di capire perché sta diventando sempre più conservativa. Quando si inizia a controllare questo magnifico monolocale, questo organo tipicamente femminile? Allora, ci sono tante indagini, noi abbiamo detto prima pap test, HPV test. Iniziamo dal vecchio pap test. Quando e chi? Allora, prima di tutto bisogna cercare di elaborare tutte le informazioni che noi riceviamo in maniera da poter beneficiare di questa medicina moderna e non farci travolgere dall'ansia della medicina moderna. E quindi direi che sostanzialmente è utile iniziare a fare il primo controllo ginecologico in una ragazza che ha sempre goduto buona salute, sì, e benessere, con l'inizio di una vita affettiva fisica, cioè quindi con l'inizio di rapporti sessuali. Questo è il primo momento in cui andrebbe fatta il punto della situazione. Quindi si fa prima una visita ginecologica completata da un pap test. Il pap test è un'indagine molto semplice, indolore, che è localizzata all'orifizio uterino esterno, che è al punto sulla punta del collo dell'utero, fatto con degli strumenti semplici, tipo uno ha una forma di un piccolo cotonfiocco, di un microscovolino e di una spatolina. Questo ci permette di raccogliere del tessuto cellulare e verificare verificare al microscopio se queste cellule sono normali, se sono alterate e che tipo di alterazioni hanno. Ma negli ultimi anni, accanto al vecchio PAP test, si è affiancato un altro test che rappresenta un'arma in più per sconfiggere il tumore dell'utero, è l'HPV test. La sigla, come sapete, rimanda al papilloma virus, virus piuttosto comune, ce ne siamo occupati diverse volte, costituito da più di 200 tipi virali. Di questi 100 sono conosciuti, 60 colpiscono la pelle, 40 le mucose, e in questo gruppo 13 sono oncogeni, ossia sono virus che possono causare il tumore. Il test di cui sto parlando ne rileva la presenza, ma io in linea ho il professor Sideri, direttore dell'unità di ginecologia preventiva dello IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, a cui chiedo di darci tutte le indicazioni del caso. Professore, bentornato. Buongiorno. Sono buongiorno molto contenta di averla in linea. Professore, allora, a chi è consigliato questo test e quando? Questo test è un test che si rivolge a una popolazione un pochettino più, diciamo, avanti con l'età affettiva. Mi è piaciuta questa introduzione che ha fatto il professor Carminati. E quindi dai 30 anni in su è un test che ci dice se la donna ha il papillomavirus oppure no. Il 90%, più del 90% non ce l'ha, e quindi da questo punto di vista può essere rassicurata come neanche il PAP test, un PAP test negativo può rassicurare molto di più. E infatti le donne che risultano negative al test possono ripetere il PAP test a distanza di 3 anni, quindi si allunga un pochino il tempo. Quindi questo è un test che ci permette di rassicurare più di quanto non potessimo fare col semplice PAP test. Ma è l'abbinata che vince? Sicuramente, sommando i due test, si ottiene il migliore risultato, ma da solo l'HPV test è utilizzato anche indipendentemente dal PAP test. Quando, come diceva il professor Carminati, avanti nell'età affettiva. Senta, invece io tornerei un po' indietro, professor Sideri, perché abbiamo parlato di test, ma esiste un vaccino per il papillomavirus. Come sapete, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno promosso questa campagna di vaccinazione gratuita rivolta alle dodicenni, e questo vaccino, professor Sideri, possiamo dire che abbassa le probabilità di rischio che si sviluppi un tumore o che si generino quelle lesioni pretumorali che poi si vanno a ricercare col PAP test, è così? È così, un'arma in più che abbiamo, una protezione di base che diamo alla popolazione futura, perché oggi la vaccinazione è offerta in modo gratuito alle bambine di 11 anni, quindi alla corte delle 12 anni. Senta, secondo lei è cresciuta una cultura vaccinale in questo, tutto questo aspetto? C'è stata una buona risposta, diciamo, una buona offerta? Sta crescendo la cultura vaccinale, è molto importante la sua diffusione. Ci sono alcune regioni italiane dove la copertura della vaccinazione raggiunge l'80-90%, quote veramente alte. Altre regioni in cui invece è un pochettino più bassa. Dipende un pochettino anche dallo sforzo comunicativo. Certo. Da questo punto di vista la regione Lombardia ha recentemente fatto un grande passo in avanti, perché ha messo a disposizione degli assistiti lombardi, ha fatto in modo che per l'età dai 13 fino ai 26, che in questo momento sono l'età della vaccinazione, si possa avere un prezzo agevolato, e quindi questo è un altro passo in avanti di cui dobbiamo proprio ringraziare la regione. Professore, questa è veramente una news, vero? Sì, è una news che sta per essere implementata. Magnifico. In regione Lombardia, però è sicuramente molto importante. Grazie professor Sideri per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Utero, dopo i controlli veniamo ai segnali da non trascurare, e soprattutto veniamo ai casi in cui bisogna affidarsi. Adesso non si può neanche più dire professor Carminati al bisturi. Ma sì, si può, sì. Sì, però al bisturi, ma non solo. Non è solo bisturi. È un vantaggio questo. È un'opportunità. Se, rapidamente, i segnali che non dobbiamo trascurare. Quali possono essere il dolore, il sanguinamento tra un ciclo e l'altro, il dolore dopo, durante il rapporto? Professore. Allora, i segnali che non vanno trascurati nelle donne in generale, sia in epoca fertile e anche dopo l'epoca fertile, sono quelle dei sanguinamenti irregolari. Il sangue è sicuramente uno dei segnali che va colto, ricordando sempre che dove c'è una patologia il sintomo si ripete, quindi non rimane un fatto isolato, molto distanziato nel tempo. E poi associati anche ovviamente al dolore, inteso non certamente come le modeste dolenzie, visto che l'apparato femminile è un apparato sempre in movimento, sempre in funzione, sempre dinamico, ma come dolori di un certo rilievo e persistenti. Questi sono due segnali che vanno da riferire. Io, Antonella, Stefania osservate. E Francesca, vediamo che come ci aiutano ad occuparci del nostro utero con le loro storie. Antonella, grazie, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, io ho un problemino abbastanza tipico. Diciamo, è iniziato con un piccolo fibroma all'utero che inizialmente non mi dava grossi problemi. E io ho 47 anni, con l'andare del tempo, diciamo che questa fibroma è diventata sempre più grande, finché il ginecologo mi dice che ormai è una parete totalmente fibromatosa. Ovviamente ciclo mestruale molto doloroso, con quasi emorragie, dolore abbastanza persistente. In più la sensazione di non riuscire più a trattenere bene, per esempio, la pipì. Ora non so se è collegata alla cosa, e allora volevo capire se la cosa andrà peggiorando, ovviamente migliorando non penso, e se sì. sono eventualmente no, anche perché elementi. Antonella è molto giovane, professor Carminati, e questo utero fibromatoso, questo fibroma che cresce, come mai? Non c'è modo di fermarlo? No, quello che è importante è che la medicina di oggi, a differenza di quella di ieri, che era bianco e nero e uno era delegato alla risoluzione del problema, è diventata una scala di grigi in cui ci sono delle condizioni di scelta, e la scelta è sempre in una soluzione che ha da una parte un rapporto rischio-beneficio. Quindi 47 anni, uno ha un utero fibromatoso, la prima cosa da accertare, che sicuramente il collega avrà fatto, è escludere che queste perdite di sangue possano essere attribuibili a qualcosa che non dipendono dalla fibromatosi uterina. Dopodiché quello che orienta il trattamento è sicuramente la sintomatologia. Noi possiamo... Però mi sembra che Antonella, poverina, ha male. Certo, Antonella ha male, l'utero è fibromatoso, e quindi è molto probabile che la soluzione possa essere certamente quella di un intervento chirurgico che comporta l'asportazione dell'organo uterino, che può essere affrontata con diverse tecniche, con diversi approcci chirurgici. In alcuni casi invece particolarmente selezionati ci possono essere anche dei tentativi farmacologici che impiegano delle sostanze che riducono il flusso, che riducono la congestione, e questo ha due funzioni. Da una prima condizione, che è quella di comunque vedere se è possibile rallentare questo processo e quindi rinviare o attendere per l'intervento, e secondo, quello di imparare a elaborare nella propria psicologia che comunque è stato fatto tutto il possibile per poter evitare questo un intervento demolitivo. Questo mi piace molto, professore, questo mi piace molto, perché noi riceviamo delle mail di ascoltatrici. Io volevo leggermene qualcuna, ma non c'è tempo, che ci raccontano che sono state operate e quindi non hanno più l'utero, ma c'è un forte rimpianto, come se non fosse stato tentato il tutto, fatto tutto il possibile. E sono anche donne che mi raccontano la loro età, e non sono più donne giovanissime. E quindi questo prepararsi, e poi non è detto che sia da fare, no? Questo intervento, uno può vivere con un fibroma, basta che non gli dia fastidio e che lo controlli. Il fibroma è una patologia molto comune, e dipende, la convivenza dipende o da dove il volume che ha. Normalmente quando comincia a raggiungere delle dimensioni superiori ai 5-6 cm comincia ad avere un'indicazione chirurgica. L'altra componente che va considerata è la sintomatologia che produce, perché noi possiamo avere dei piccoli fibromi vicino alla stanzetta, che è la parte funzionale dell'utero, che determinano una sintomatologia emorragica, e allora questi, anche se piccoli, andranno affrontati. Altra altre volte invece sono lontani da questo spazio e quindi anche diventando grandi non producono nessuna sintomatologia. E terzo aspetto che va anche mediato è il riferimento all'età e alla curva di crescita, perché se ho un fibroma che cresce molto lentamente, questo mi rassicura nella sua natura benigna. Se invece ho un fibroma che cresce molto rapidamente, allora questo è un segnale negativo che deve essere valutato. Stefania, buongiorno, mi scusi, l'ho fatto attendere, e anche Francesca dalla provincia di Varese, ci sono molte telefonate, cercherò di dare spazio a ciascuna di voi. Stefania, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io ho 58 anni e mi è stato diagnosticato un utero fibromatoso con molti fibromi, di cui il più grosso, diciamo, ha un 14 centimetri di diametro. Sono in menopausa da 3 anni circa e comunque il ginecologo propone di asportare l'utero. Io invece me lo vorrei tenere. Volevo un parere. Professor Carminati, noi abbiamo iniziato questa puntata dicendo la terapia è conservativa, e conservativa, arrivano le telefonate e dicono tutti questi ginecologi che vogliono toglierci l'utero, ma perché? Allora, quando una massa è di 14 centimetri è un parametro che ha una sua indicazione chirurgica, perché prima di tutto quello che non dice l'ascoltatrice è da quanto tempo lei è portatrice di questa patologia, perché è quantomeno singolare che uno si trovi a 58 anni con un fibroma di 14 centimetri, perché i fibromi durante l'epoca del climaterio non crescono, e se crescono certamente è un segnale che va accolto come un segnale negativo. Ah, quindi durante il climaterio si arresta. Certo, ma questa già è una bella notizia. Ma Tiziana, Stefania, scusi, ma il problema è come, cioè, me ne sono accorta circa 7-8 anni fa, quando ancora ero mestruata. Poi naturalmente durante l'età fertile hanno continuato a crescere un pochino e adesso io spero, è da un anno che non mi controllo, ma spero che, essendo in menopausa da 3 anni, la crescita almeno qualche vantaggio la menopausa ce la darà. Facciamo l'intervento, è sempre necessario o sfruttando la menopausa? Ma quindi dipende, il problema non è tanto il fibroma o non fibroma, innanzitutto bisogna accertare che sia veramente un fibroma e che non sia invece queste forme che sembrano fibromi ma in realtà si possono annoverare fra i sarcomi, e quindi questo è un aspetto molto importante. Come da valutare. Si vede? Non si vede questo, quindi ce lo dice solo il fatto della crescita. Una donna in menopausa non dovrebbe avere delle masse solide che crescono, primo aspetto. Il secondo sono che va considerato le dimensioni. L'ascoltatrice parla di una massa di 14 centimetri, e lei, a occhio uno deve pensare 14 centimetri sono come un pompelmo e mezzo, se vogliamo sempre ritornare a un modello frutta. Della frutta. Se pensiamo che un utero normale a 5-6 centimetri e che mediamente pesa un etto, ci rendiamo conto che la massa è talmente voluminosa che l'indicazione chirurgica trova un suo spazio razionale ben condivisibile. 800 24 0024, me ne sto rendendo conto, me lo scrivono, una puntata tutta femminile, e sì, perché l'utero ce l'abbiamo noi. A voi ho dedicato delle puntate intere sulla prostata, facciamo un po' per uno. Professor Carminati, ma questi fibromi, selezionando, insomma, guardiamo la dimensione, la localizzazione, eccetera, è vero che oggi si può solo asportare il fibroma e ricostruire l'utero? Questo è un po' un suo cavallo di battaglia. Sì. Allora, i fibromi fanno parte di un'ampia galassia che abbiamo detto, sia per misure che per sintomatologie, relazionati anche all'età. Quindi non è detto che tutte le donne che abbiano dei fibromi necessariamente debbano essere costrette all'asportazione dell'utero. Molte volte si può, valutando bene insieme alla donna, togliere queste formazioni che sono come delle pietre nel nostro muro, del nostro monolocale, e ricostruire questo muro. E non è una cosa soprattutto legata, come tradizionalmente, ecco perché l'oltre la tradizione, a un fatto di età. Signora, togliamo l'utero, intanto tanto, non può più avere bambini. Noi possiamo parecchio. Considerare assolutamente la possibilità di riparare un utero quando razionalmente ci dà una garanzia di risultato. Questo per sottolineare che è chiaro che se un utero talmente compromesso che anche togliendo i fibromi è talmente ormai rigido che non ci garantisce, è come se fosse una parete di roccata, una parete rigida di pietra, allora in questo caso si può fare indipendentemente dall'età e accettando ovviamente quelli che possono essere anche le possibilità di continuare ad avere un mestruo piuttosto abbondante, o magari avere delle dolenzie mestruali. Quindi non più l'età legata esclusivamente, ecco, a un discorso demografico. E se io vado da un ginecologo e mi dice, signora, intanto lei ha una certa età, io cambio. No, adesso non necessariamente, perché il discorso, però almeno sapere che ci sono altre opportunità. Va bene, ecco, va bene. Francesca così. Dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, io a 43 anni sono stata operata di isterectomia in laparoscopia con conservazione delle ovaie, sì, perché avevo quattro fibromi che si sono sviluppati nel giro di 2 anni, erano molto piccoli, visita ginecologica, il ginecologo mi dice 2 palline da tennis e 2 da ping pong. Sì. Non avevo dei grossi problemi, avevo delle mestruazioni molto molto abbondanti che erano insomma anche un po' invalidanti. Devo dire che il ginecologo mi ha detto, ma signora, 43 anni, lei vuole ancora figlio? Assolutamente, poi mi ero anche appena separata, sì, ho sempre sofferto di mestruazioni. Lei, Francesca, ha avuto figli però? Sì, una figlia. Sì. Quindi era già grande perché ho partorito a 26 anni, quindi veramente a cuor leggero e con grande soddisfazione ho detto togliamo l'utero, certo, perché ho sempre comunque associato la mestruazione a un grande disagio, a un grande dolore. Ora però devo, parlando con altre persone, volevo capire se l'utero ha una qualche funzione rispetto anche alla sessualità. Sì. Perché le dico, io non ho sofferto psicologicamente, sì, per la perdita dell'utero, le dico assolutamente no, anzi non avere le mestruazioni per me è una meraviglia. Però devo dire che credo che sia cambiato molto, non riesco a capire, cioè già quando ero ancora, ora sono in menopausa, nel senso che da esami del sangue, cioè da gli esami proprio hanno stabilito la menopausa, sì, totale, ma anche negli anni precedenti, ora ho 52 anni. La sessualità non è più come prima? Secondo me, Francesca, no. Una mia amica medico mi ha detto, ma sì certo, doveva dirtelo il ginecologo, ma ovviamente. Mi piace Francesca come ha fatto l'amica, perché di solito le amiche quando noi siamo in dubbio, certo, ma non lo professor sapevo. Carminati, perché non gliel'ha detto il ginecologo? Avrebbe dovuto dirglielo, cambia qualcosa? Allora, prima di tutto, una delle cose fondamentali è che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro e rispettare la relazione professionale in maniera da non creare angosce. Allora, la sessualità è evidente che è un complesso non solo biologico dell'organo, ma è soprattutto legato a una struttura psicologica, fisica, procreativa. Quindi il fatto che la signora abbia tolto l'utero, questo dal punto di vista biologico non compromette la sessualità, assolutamente no, tant'è vero che noi abbiamo avuto dei direttori di cattedra di ostetricia e ginecologia che avevano affetti fisici assolutamente di donne isterectomizzate. Questo è, bisogna vedere che valore si dà a quest'organo, perché se io, passati 40 anni, vivo la isterectomia come un bilancio negativo perché ormai la mia vita, questo non è assolutamente vero. Il problema è stato soltanto che la donna non ha avuto la possibilità di poter scegliere, perché probabilmente non è una consuetudine, ecco perché nella tradizione abbiamo detto che l'intervento demolitivo è molto legato all'età anagrafica della donna, cosa che invece si sta superando. Per non cui è lei dice, superando. Professore, che l'isterectomia non provoca, non dà un'alterazione, no. C'è qualcosa di... Ci sono molte donne che dopo l'isterectomia stanno molto meglio, ricordo un caso per esempio di una donna che aveva dei dolori nei rapporti molto violenti, che tolto l'utero, una donna molto più giovane di lei a cui avevamo proposto un intervento conservativo, lei aveva già 4 figli, ma ha detto assolutamente no, mi tolga questo organo che non ne posso più. E quando noi gli abbiamo detto, ma signora adesso come si trova? Ha detto benissimo, se l'avessi saputo l'avrei tolto anche prima. Quindi è un vissuto molto personale, come invece facciamo interventi conservativi a donne anche in età biologica avanzata, alle soglie della menopausa, che statisticamente quelle che lo richiedono di più sono donne che non hanno avuto figli, quindi l'utero assolve a un immaginario di femminilità e di speranza, ecco che lo si vive in maniera molto differente. Bellissime sono state le conferenze della professoressa Ballaro Verde di Genova, una grandissima accademica, che proprio spiegano questo vissuto relazionato all'organo utero, quindi non c'è una univocità. E la cosa più dolorosa è che quando delle scelte sono state fatte, che qualcuno ti dica: ah, perché non ti hanno detto, non hanno fatto? Questo non giova, crea soltanto un ulteriore dolore dell'anima che deve essere assolutamente invece rimosso e sanato. Professor Carminati, grazie per essere stato con noi. Io ricordo, è un testo per addetti ai lavori, ma La chirurgia vaginale oltre la tradizione, Piccine Edizioni, è un libro che io vi consiglio. Magari non riusciamo a capirlo tutto, ma ci dà un po' l'indirizzo, no? Ci fa capire che qualcosa per fortuna è cambiato. È un libro che è nato proprio per chirurghi vaginalisti, quindi non è rivolto alle signore in generale, però ci spiega come noi possiamo togliere cisti ovariche, riparare l'utero, asportarlo passando attraverso questo canale naturale, che è questo canale straordinario che non dà un segno di trauma all'organismo femminile e che ci permette di gestire molta della patologia femminile senza lasciare ferite eccetera e tracce di questo segno di violenza razionale subita. Grazie professor Carminati, buona giornata e alla prossima. Grazie a lei, a Radio 24. E prima di salutarci è arrivato il momento del nostro consiglio del giorno, che oggi, cari amici, è dedicato a chi si è alzato con la luna storta. Capita a tutti, quindi non colpevolizziamoci, proviamo a raddrizzare la luna storta insieme ad Alessandra Faiella, che è in linea con noi. Alessandra, ciao, benvenuta. Ciao, benvenuti anche a voi. Alessandra, capita, uno si alza e vede tutto grigio o nero, insomma, in quella tonalità lì. Sì, capita anche a me, capita a tutti, e non è facile raddrizzarsi, però è pericoloso prendere quella china lì un po' di cupezza. Allora io do come consiglio del giorno oggi l'auto-osservazione, cioè proviamo a guardarci come se fossimo un'altra persona e farci un pochino il verso: ah mio Dio, come sono, nel cattivo umore, non ho dormito, però mi va tutto storto. Se già cominciamo a farci un pochino una parodia di noi stessi, cominciamo forse a sorridere. Quindi Alessandra, diventiamo spettatori di noi stessi. Questo è il compito di oggi. Woody Allen era un grande nell'autoosservazione, nell'autoironia. Diceva: io ho pochissimi riflessi, una volta sono stato investito da una macchina spinta da due tizi. Ecco, quindi era estremamente autoironico. E quindi come consiglio del giorno io do questa autoosservazione per fare un esempio concreto di quelli che do nei miei corsi, per esempio. Ecco, tra l'altro, scusa, velocissimo, una parentesi sui corsi. Io ho parlato ieri quando sei venuta dei tuoi corsi, molti ascoltatori hanno scritto, tra l'altro ci sarà proprio un corso questo fine settimana a Milano, no? L'11 e il 12. Assolutamente, quindi affrettatevi per le iscrizioni, trovate tutte le informazioni sul sito, ecco, www.alessandra.com. Noi chiudiamo rapidamente perché io voglio il consiglio per chi non viene ai tuoi corsi. Anche in un litigio, in una situazione conflittuale, proviamo sempre a estraniarci e osservare la situazione come se si trattasse di vedere un film, una sitcom, una fiction, quindi un dialogo tra due colleghi, tra marito e moglie che insomma litigano. Ale, c'è un piccolo Woody in ognuno di noi, riscopriamolo. Bisogna saperlo tirare fuori. Grazie ad Alessandra Faiella per essere stata con noi, grazie a voi per averci ascoltato e seguito, vi do appuntamento domani, e domani ci sentiamo dal Vinitaly, per cui se siete a Verona venite a trovarmi.